Il deserto di Atacama, situato in America meridionale, si estende dal Perù meridionale al Cile settentrionale. È proprio qui, scavalcato il confine del Perù, che ci fermiamo a gustare un altro panino tipico. Affacciato sull'Oceano Pacifico, è una striscia di terra che arriva fino alla fine del Sud America. Benvenuti in Cile! La cultura cilena è una miscela di tradizioni indigene e spagnole. Ha anche una ricca tradizione letteraria e musicale e il paese ha prodotto diversi scrittori e musicisti di fama internazionale. Popolare destinazione turistica, il paese offre una varietà di attrazioni, tra cui il citato deserto di Atacama, le Ande, i laghi e le foreste del sud e le città di Santiago e Valparaíso. È in questi luoghi di estrema bellezza che nasce questo panino che abbiamo scelto per questa avventura, il chacarero. Un panino tipo hamburger riempito di controfiletto di manzo, fagiolini e jalapeños. Come per il Perù e per gran parte dei paesi sudamericani, il pisco è il liquore principale. Una lunga ricerca ci ha portato a trovare altre varianti da proporvi, per non ripeterci nei drink proposti dai vicini peruviani. Pronti a indossare il chamanto, tipico poncho, e vivere questa nuova esperienza? Bastano solo 15 euro. Un proverbio locale dice: El que no llora, no mama. Chi non piange, non poppa. Grazie per l'ascolto.